dal treno, accendo una sigaretta, prendo il cellulare, le scrivo un messaggio, sto per arrivare. Dice non ti preoccupare che scendo col cane. Dico scendi sola con le canne, non te lo portare. Così la facciamo mentre camminiamo su dei portici, che poi c'ho un po' di cose che ti volevo raccontare. Quella sera che non rispondevi, ci sono stato male fino alle 8 con le pupille in diagonale. Ti amo bene, ti amo male, ti amo quando posso e non devi lavorare. Così puoi farmi innamorare da un estremo all'altro con i soli drammi da adorare. Volo senza quei programmi, ho solo grammi da bruciare. Questi qua mi guardano come se fossi l'unico che ancora ci crede. Non potete farmi la morale, se vi sembro stupido è perché siete poveri. Il mio cuore è malandato come sola arma da giocare. E lei è ancora meglio perché dice che facciamo male, che dovremmo fare i bravi e non vederci per due settimane, che possiamo inventarci quello che ci pare. Le dico che c'ha ragione, ma che non resisto quando so che la potrei vedere. Prenderei da bere per poi camminare nel quartiere che mi fa piacere. Lei dice che dovrei andare piano, io invece vado forte, forte, forte. Lei lo vuole forte, ci spacchiamo forte, lo strilliamo forte, forte, forte. Lei lo vuole forte, ci spacchiamo forte, noi andiamo forte, forte, forte. Lei lo vuole forte, forte, forte. Forte come una Ferrari con i fari spenti nel deserto, come chi ha le ali. Che sarebbe bello un mondo senza X calendari, ma nella cassetta della posta l'ansia fa i regali. Che vogliamo stare pari, ma finiamo sempre con l'esplosivo che ci esplode in petto come i talebani. Rimaniamo tali e quali con gli sbagli, come tagli con il sangue tra gli squali. E so bene che ci piace comportarci da animali, solo canne e lingua come elementi basilari. Che so che c'è il cuore che vorrebbe correre ai ripari, ma oramai per me vali troppo, sei uno Stradivari. Che non posso togliere quello che ho già messo in cassaforte, quindi dammi un'altra notte senza frasi varie. Che sai bene quanto mi fa bene, quanto mi fa male. Che sai bene quanto mi fa avere, quanto mi fa dare. E lo so che è difficile, che sembra sempre simile. Tu mi ami perché non mi fermo mai, poi non mi sopporti perché non riesco ad avere il senso del limite. Ti dico che c'hai ragione, ma che non resisto quando so che ti potrei vedere. Prenderei da bere per poi camminare nel quartiere che ti fa piacere. Tu dici di andarci piano, ma io come faccio? Vado forte, forte, forte. Lei lo vuole forte, ci spacchiamo forte, lo strilliamo forte, forte, forte. Lei lo vuole forte, ci spacchiamo forte, noi andiamo forte, forte, forte.